alcune cose che stavamo dicendoci ieri. Particolarmente la questione tecnofilia-tecnofobia. Se provate a ricostruire l'insieme, l'intero discorso che ho cercato di sviluppare fino ad ora, cioè se cercate di... Ah, ecco, grazie, ci diamo un'occhiata. Se cercate di riepilogare la questione di cui stiamo parlando, prima di tutto dal punto di vista storico, e vi rendete conto del fatto che questa ambiguità, chiamiamola duplicità, della duplicità di prospettive, che è definibile in termini di tecnofilia, tecnofobia, è iscritta dentro l'origine storica, sociale dello sviluppo delle nuove tecnologie. Quando nel 1964, per tornare sempre al nostro mitologico punto di inizio, non è mitologico, è successo davvero, è un fatto storico, però insomma io gli sto attribuendo come carattere della scena originaria di tipo un po' mitologico appunto. Ecco, se tornate al discorso di Mario Savio del 2 dicembre del 1964, vi rendete conto del fatto che al tempo stesso vi è una rivendicazione del potere, della potenza, diciamo meglio, della potenza del lavoro intellettuale e un rifiuto, quasi una maledizione nei confronti della macchina. Ecco, esaltazione della potenza implicita nel lavoro intellettuale e rifiuto del uso che socialmente ne viene fatto. In quel caso, come sappiamo, l'uso è quello militare, perché siamo nel periodo in cui la guerra del Vietnam segna l'orizzonte politico e anche, diciamo, culturale, immaginario degli Stati Uniti d'America. Però al di là di quella particolare condizione, sempre nel corso dei decenni successivi, sempre la coscienza critica si rende conto di questa contraddizione in cui il lavoro cognitivo, il lavoro intellettuale, il lavoro scientifico e i suoi prodotti sono presi. Una contraddizione tra, per l'appunto, questa ricchezza implicita e questa miseria che invece nelle condizioni reali vengono prodotte. Il cyberpunk è il momento in cui l'immaginazione letteraria, l'immaginazione artistica si fa interprete di questa consapevolezza, della consapevolezza di questo contrasto, di questa contraddizione. Potremmo dire, è una, prima ho detto ambiguità, ambiguità vuol dire doppio significato, ed effettivamente si tratta di una ambiguità, forse è meglio dire ambivalenza, di una doppia valenza e di una doppia possibilità implicita all'ordine esistente del lavoro cognitivo, alle forme esistenti del lavoro cognitivo. A questo proposito, c'è un articolo, ecco, io comincio un poco finalmente ad avvicinarmi, a entrare nel testo di Caronia, come sapete, ripeto, che io intendo questo corso in un certo qual modo come una introduzione alla lettura delle cose che ha scritto Caronia, o viceversa intendo le cose che ha scritto Caronia come una introduzione, credo la migliore che esistente in Italia, alle problematiche della ambivalenza tecnologica. E in un suo libretto del 2001, mi pare, che si chiama Il Cyborg, sì, è del 2001, Caronia ragiona sul concetto di possibile, concetto molto interessante, se ci pensate, dal punto di vista filosofico. Allora, ieri abbiamo un po' pazziato sulle immaginazioni cinematografiche, Blade Runner e Matrix. E adesso cerchiamo di approfondire, di cercare di capire meglio in che senso l'ipotesi tecnofile e quella tecnofoba sono in qualche modo strettamente intrecciate nell'immaginario cyber. Ecco, e dico cyber per intendere sia la versione positivista, positiva, ottimista di certi ambiti della cibercultura, sia quella invece distopica. Ecco, altre due parole che vi voglio proporre sempre per ragionare sugli aspetti immaginari della questione di cui stiamo parlando, utopia e distopia, che sono due parole che si riferiscono alla immaginazione, ma anche alla letteratura. Cosa vuole dire utopia? Lo sanno tutti. Utopia è una parola greca, u significa non, e topos, o anche topia, topos significa luogo, e topia significa il luogo, la possibilità di un luogo. Dunque, utopia significa non luogo, è un luogo che non esiste. E esiste tutta una letteratura fino dall'antichità che è dedicata alla immaginazione di luoghi che non possono esserci. E generalmente diciamo che poi nella modernità la parola utopia finisce per venire a significare una immaginazione politica di ciò che potrebbe esserci ma non c'è, per qualche ragione che è legata poi al potere o alle forme culturali predominanti, eccetera, eccetera. A cominciare con Thomas More, che nel corso del 1500 scrive proprio un'opera intitolata Utopia, nella quale immagina forme di vita vagamente definibili in senso comunistico. Ecco, molto spesso nella modernità l'utopia si collega con l'idea di una società collettivistica in cui tutti i beni sono condivisi, scompare la proprietà privata. Tra il 7 e l'800 c'è tutto un fiorire di ipotesi di tipo utopico, per dire alcuni nomi, Fourier o Owen elaborano una ipotesi di tipo utopico che sono centrate sulla creazione di comunità nelle quali per l'appunto è abolita la proprietà privata. Ecco, l'idea che la ricchezza debba essere condivisa è uno dei tratti essenziali dell'immaginazione utopica moderna. Il pensiero di Marx e di Engels nasce proprio da un tentativo di liberarsi da questo, come posso dire, da questo vincolo utopico, da questa forma utopica che aveva caratterizzato il pensiero collettivistico in generale nell'epoca precedente. Marx usa proprio l'espressione, anzi forse Engels, comunque insomma i due usano l'espressione, bisogna portare il socialismo deve passare dall'utopia alla scienza. Interessante passaggio, sì, ma come si fa a portare il socialismo dall'utopia alla scienza? Ed ecco qua un passaggio concettualmente essenziale, filosoficamente molto importante, e cioè utopia è una pura immaginazione astratta, cioè priva di rapporto con il possibile, che delinea appunto formalmente, astrattamente, come dovrebbe o come si immagina che possa essere un mondo a venire, mentre secondo Marx il compito dei socialisti o comunisti, sapete che le due parole vengono usate per lungo tempo in maniera intercambiabile, anche se invece poi nel Novecento il movimento socialista e quello comunista si separano e anche talvolta contrappongono, comunque insomma i socialisti debbono essere non degli utopisti, ma gli interpreti scientifici di una possibilità che è iscritta all'interno delle condizioni presenti della società medesima. Cioè il socialismo diventerà scientifico nel momento in cui non si proporrà più, non si proporrà delle forme ideali. Il problema non è l'ideale, il problema è il possibile, cioè il problema è ricavare, dispiegare, proiettare ciò che all'interno della condizione presente già esiste, esiste però allo stato di possibilità. Ecco che qui si presenta una questione concettuale che il pensiero filosofico ha lungamente, diciamo fin da Aristotele, elaborato. Cioè, cosa significa possibile, cosa significa reale e cosa significa necessario. Ecco, adesso se non vi annoia troppo, io mi fermo per qualche minuto su questa questione che è propriamente filosofica. Però prima di impostare, di sviluppare questa questione, voglio vedere anche l'altra parola che avevo proposta all'inizio, avevo detto utopia o distopia. Dis in greco significa negazione, significa non, significa male, significa nella maniera sbagliata. Dis turbo, disaccordo, anche nell'italiano noi abbiamo ereditato questo prefisso greco che indica la negazione, in un certo qual modo, piuttosto indica una cattiva evoluzione di ciò che il resto della parola contiene, distonia. Una sintonia, un'armonia che è andata male in un certo senso. Dunque, distopia significa non il contrario dell'utopia, non un luogo che non c'è, dunque un luogo che c'è, ma una malattia dell'utopia, uno sviluppo, un dispiegarsi negativo, malato, sofferente dell'utopia. Per cui se l'utopia è il luogo che non c'è, non può esserci, e che però noi sogniamo, la distopia è il realizzarsi perverso di una immaginazione, ciò che noi avevamo atteso come sviluppo positivo, che invece si manifesta come sviluppo negativo, il sogno che si trasforma in incubo. L'idea dell'incubo è fortemente collegato con l'immaginazione distopica del nostro tempo. Nella letteratura del Novecento la distopia è una delle forme più interessanti, se vogliamo, della fantascienza. La fantascienza che un tempo si era identificata prevalentemente nelle forme utopiche, da un certo momento in poi comincia invece a rovesciarsi nelle forme distopiche, nell'epoca positivista o nel primo Novecento, quando la tecnologia era accolta con entusiasmo, un ottimismo progressista, come accade nel caso dei futuristi, per esempio. Ecco, la macchina che potenzia la nostra capacità di produrre, la nostra velocità, eccetera, eccetera. Quindi la macchina come potenziamento, e c'è in un ambito vagamente definibile come futurista, c'è tutta una letteratura che immagina le grandi potenzialità che la macchina ci offre, il viaggio interstellare, ecco, per dire la fantascienza più popolare e più nota. Da un certo momento in poi l'immaginazione letteraria utopica si rovescia in distopia. Potremmo citare alcuni lontani antecedenti della distopia, e allora torneremmo a Mary Shelley e al suo Frankenstein, appunto, il prodotto della tecnica geniale, straordinario, e che si rovescia contro l'uomo e in qualche modo ne diventa il persecutore. Ma per venire ai nostri giorni, un autore classico della distopia moderna o tardo moderna è George Orwell, uno scrittore che probabilmente già conoscete, autore di molti libri. Orwell ha scritto un libro sulla Malesia, perché lui è inglese ma è nato in Malesia, poi ha scritto un libro sulla guerra civile spagnola, omaggio alla Catalogna. Orwell partecipa alla guerra civile spagnola nel 1936, è un, diciamo, un giornalista, uno scrittore, un antifascista, un partigiano antifascista, un personaggio decisamente interessante a metà del secolo, vicino agli anarchici spagnoli, vicino alla resistenza repubblicana, e che poi, dopo le delusioni, sapete che la guerra civile spagnola finisce male con la vittoria del fascismo, e poi Orwell partecipa alla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale la sua evoluzione letteraria va in una direzione che possiamo definire distopica. L'opera forse più nota di Orwell è infatti un libro intitolato 1984. Il libro è stato scritto nel 1948 e Orwell si limita a rovesciare le ultime due cifre per immaginare un lontano futuro che un giorno realizzerà una utopia negativa. La distopia a cui si riferisce Orwell è propriamente una distopia tecnologica e tecnocomunicativa. Non so se vi è capitato di leggere questo libro, che io vi consiglio anche perché è un libro, diciamo, che si legge con un certo piacere, e piacere si fa per dire, insomma, non è propriamente divertente. E l'immaginazione è quella di un libro in cui, come posso dire, lo schermo nel quale si incarna il grande fratello, cioè l'occhio che tutto controlla, è alla funzione di controllare continuamente che nessuno compia il gesto assolutamente tabù, assolutamente vietato, che è quello di possedere o leggere un libro. Ecco, la scrittura viene qui contrapposta genialmente all'elettronica, e la televisione viene immaginata come televisione rovesciata. Non è lo schermo che tutti guardano, ma è lo schermo che guarda tutti. Questo Orwell non l'ha fatto perché fosse all'oscuro di quello che la televisione già allora cominciava ad essere, ma si tratta di una metafora del medium che lui vede crescere. Qualcuno di voi sa quando si può datare la prima trasmissione televisiva? Domanda difficilissima alla quale nessuno può rispondere in realtà, perché poi in realtà non lo sappiamo, però c'è una convenzione per cui diciamo abitualmente che la prima trasmissione televisiva viene nel 1939 all'Expo Universale di New York, ed è viene trasmessa dalla RCA, Radio Corporation of America, diretta da David Sarnow, e questa prima trasmissione televisiva, che insomma è ricevibile solamente nella città di New York, anzi nell'isola di Manhattan, vengono distribuiti un certo numero di schermi, di terminali televisivi in alcuni negozi della città, e Sarnow intervista il presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, che si presenta all'Expo, insomma, all'Esposizione Universale. Questa è considerata come la prima trasmissione televisiva. Un giorno che ci capitasse, che potessimo farlo, cercherei di raccontarvi un poco perché per qualche ragione che non riesco a capire si fa, non si fa, e invece bisognerebbe farlo. Mi piacerebbe raccontarvi un po' la genesi della televisione, cioè che tipo di lavoro tecnico, questo io non sono in grado di farlo, ma che tipo di lavoro concettuale, immaginativo, è stato fatto per giungere a produrre quel modello che poi è rimasto per 40-50 anni il modello dominante. Oggi stiamo uscendo dall'epoca classica della televisione, ma diciamo dagli anni 40 fino agli anni 90, quel modello centrico a broadcast e broadcast terminale, quindi fortemente centrico, quel modello ha prevalso nelle abitudini comunicative di larga parte dell'umanità. Non c'è dubbio che la televisione ha svolto una funzione di trasformazione comunicativa, ma anche culturale, vorrei dire affettiva e profondissima, e in quel libro del 1948 Orwell ne coglie un aspetto essenziale, anche se lo rovescia metaforicamente. Non è vero che noi tutti guardiamo lo schermo. Questo è quello che ci sembra di fare, ma la realtà è che nel guardare lo schermo siamo guardati dallo schermo. E lo schermo che noi crediamo di guardare, ma in realtà ci guarda, è lo strumento che ci vieta poco alla volta di elaborare criticamente, individualmente, una nostra comprensione del mondo, perché impone la comprensione del mondo che il Grande Fratello vuole diffondere. È straordinario come in fondo già dagli anni 40 ci fosse qualcuno, non tanti naturalmente, ma insomma qualcuno capace di comprendere qual era la linea di tendenza profonda nella storia dei media, del rapporto fra media e cultura. Bene, il romanzo ci racconta poi di tentativi che alcuni compiono di trovare un modo per Leggere poi cosa significa? Significa un rapporto individualizzato e libero con la conoscenza e anche significa la possibilità di avere accesso ad una forma conoscitiva che renda possibile la critica. Critica e quindi la libertà individuale, perché questa questione della critica è una questione profondamente iscritta nelle modalità stesse della nostra esposizione all'infosfera, insomma, alla sfera dell'informazione. Cosa vuol dire critica? Critica, in greco la parola critica nasce dalla parola crisis. Crisis significa separazione, distinzione, rottura, ma meglio insomma distinzione proprio fra due possibilità. Dunque la critica è la capacità di distinguere tra verità o falsità, o tra bene e male, diciamo. Nell'enunciato, in ciò che ci viene presentato. Ora, questa facoltà non è una facoltà naturale. Gli esseri umani non sono naturalmente critici o acritici. La capacità critica si modella attraverso una storia millenaria. C'è un autore, un antropologo inglese che si chiama Jack Goody, che ha scritto un libro tra gli altri dal titolo L'addomesticamento del pensiero selvaggio, in cui spiega come la formazione del pensiero critico è strettamente collegato con la scrittura, con la capacità cioè di fissare il pensiero in modo ordinato e sequenziale. Cioè, la scrittura rende possibile una fissazione rivisitabile del pensiero. E gli antropologi, non solo Jack Goody, ma tanti altri, a cominciare con Lévi-Strauss, gli antropologi identificano invece il pensiero pre-alfabetico, il pensiero puramente orale, la trasmissione puramente orale del pensiero, diciamo meglio, la identificano con un universo di tipo mitologico. Nel momento in cui noi non abbiamo la possibilità di fare delle liste, riconsiderare ciò che è stato detto, di riesaminare in sequenza i contenuti della comunicazione, siamo esposti ad una specie di flusso ininterrotto di comunicazione nella quale non possiamo, per così dire, mai tornare indietro, non possiamo mai esaminare criticamente ciò che accade, ciò che circola intorno a noi nell'infosfera che ci sta intorno, ad esempio nelle forme della comunicazione orale o nelle forme della pura esposizione all'informazione naturale e così via. E dunque il nostro pensiero, il pensiero umano, prima della disponibilità delle tecnologie alfabetiche, il pensiero umano tende alle forme mitologiche. Cos'è la mitologia? La mitologia è una narrazione nella quale non è implicito il principio di non contraddizione. È possibile che una divinità sia morta e che quella stessa divinità sia viva. È possibile che ciò che accade prima accada dopo. È come, diciamo, come Freud dice che accade nel sogno. Nel sogno non esiste il principio di non contraddizione. Nel sogno ciò che noi sappiamo non essere può essere. E ciò che noi sappiamo non essere più può essere ancora. Ciò che è logicamente incompatibile può comunque manifestarsi. Ecco, il sogno come la mitologia sono dimensioni del pensiero o dell'immaginazione delle quali non vigono le leggi della logica. la logica è strettamente collegata, questo ce lo spiega Jack Goody nel libro che citavo prima, la logica è strettamente collegata con la disponibilità della tecnologia comunicativa che chiamiamo scrittura, tecnologia alfabetica. Ma allora, quando la tecnologia comunicativa che noi chiamiamo scrittura diventa marginale, nel caso di 1984 diventa un tabù, noi sappiamo che non è vero, non è un tabù, noi possiamo leggere dei libri, qualcuno di noi continua anche a farlo, ma questo tende a diventare un comportamento relativamente marginale, talvolta esplicitamente colpevolizzato, insomma, marginalizzato, perché altre forme di comunicazione sono più efficaci, più rapide certamente, più produttive dal punto di vista del risultato economico e così via, e dunque non esiste ancora un mondo nel quale chi legge i libri viene incarcerato come immagina George Orwell, però chi legge i libri perde tempo, e siccome il tempo è denaro, insomma, non è escluso che la Banca Centrale Europea decida che non possiamo farlo. Ecco, ma in una condizione tecnocomunicativa in cui la sequenzialità viene progressivamente sostituita dalla configurazione, ecco che il pensiero mitologico, l'immaginazione mitologica ritorna al centro. Questo lo aveva detto già McLuhan nel 1964 in un libro che può essere considerato come il libro fondativo della sociologia della comunicazione contemporanea, Understanding Media, che in italiano è tradotto con il titolo Gli strumenti del comunicare, edito da Saggiatore, prima edito da Bompiani, insomma un libro fondamentale perché si occupa di questi argomenti, nel quale fra le altre cose McLuhan, sapete che si tratta di un libro piuttosto fascinoso, molto letterario per certe questioni, non è proprio un saggio sociologico, diciamo accademico, è un libro che ebbe tra l'altro un grande successo di pubblico anche, e in quel libro fra le altre cose McLuhan dice: quando al sequenziale succede il simultaneo, il pensiero umano regredisce dalla fase critica alla fase mitologica. Cos'è il sequenziale e cos'è il simultaneo? Il sequenziale è la forma alfabetica della comunicazione, simultanea è la forma configurazionale, cioè quella in cui noi ci troviamo continuamente esposti al consumo, alla ricezione di configurazioni, di immagini più o meno fisse o in movimento e così via. Ora, il configurazionale è dunque una modalità, e qui forse sarebbe utile andarsi a leggere anche von Burger, ma bisogna dire anche che il simultaneo configurazionale nel quale noi siamo immersi ha un'altra caratteristica importante che McLuhan non ha tanto analizzato, ed è la velocità, o meglio l'accelerazione dell'universo configurazionale, dell'infosfera configurazionale. Questa accelerazione provoca una sorta paralisi delle potenze critiche del cervello umano, proprio, non solo della mente, ma qua si tratta quasi di un fenomeno che ha caratteristiche fisiche. Cerco di spiegarmi. accelerazione, cosa sia l'accelerazione della configurazione, lo capite benissimo nel momento in cui noi pensate al multitasking, ad esempio, o pensate più semplicemente al fatto che l'immagine televisiva è più veloce, è più intensa e più invasiva, che ne so, dell'immagine cinematografica, o pensate al fatto che dalla disponibilità di un canale televisivo degli anni 40 o 50 passiamo alla disponibilità di 3 e poi di 7 e poi di 10.000 canali televisivi. Quindi in certo modo la infosfera, cioè la sfera che invia stimolo informativo alla mente umana, tende ad accelerare il suo ritmo nel rapporto con il cervello umano. Ora, voi capite bene che la capacità di elaborazione intellettuale, razionale, critica, ma anche emotiva, affettiva dell'informazione è funzione del tempo di cui disponiamo per elaborare la configurazione stessa, l'immagine stessa. Mi spiego ancora meglio. Se voi vedete le immagini che proniamo, di avere di fronte delle fotografie che si presentano di fronte a noi con questa sequenza, abbiamo la possibilità di comprendere, elaborare e probabilmente anche giudicare le immagini che si presentano ai nostri occhi. Se l'immagine va più veloce, la nostra capacità di coglierne il significato si riduce proporzionalmente alla velocità dell'immagine. Se questa velocità diventa una velocità altissima, o addirittura una velocità assoluta, nel senso che la velocità dell'immagine è superiore alla nostra capacità di decodificare il senso, passiamo a quella che si chiama comunicazione subliminale. Sublimine, in latino vuole dire limite, dunque una velocità dell'informazione che vada al di là o al di sotto del limite della nostra capacità di decodificazione cosciente, è quella che si chiama comunicazione subliminale. Quando il vostro cervello riceve degli stimoli che non riesce però a decodificare consapevolmente, meglio, il vostro occhio riceve e manda al cervello degli stimoli che non siamo in grado di decodificare coscientemente. Ecco, questo è, diciamo, il quadro nel quale noi ci dirigiamo nel momento in cui, usciti dalla sfera prevalentemente alfabetica, la sfera alfabetica non viene cancellata definitivamente, naturalmente, ma tende sempre di più a diventare una sfera marginale nella comunicazione sociale predominante. E uscendo dalla sfera alfabetica, noi tendiamo ad entrare in una sfera in cui la facoltà discriminativa tradizionale, la capacità tradizionale di discriminare tra il vero e il falso, viene, per così dire, sommersa, resa disfunzionale, inattuale, incapace di agire effettivamente a causa appunto di questo mutamento dell'ambiente infosferico nel quale noi ci troviamo. Intendiamoci, qui stiamo aprendo una questione di straordinaria complessità, sia dal punto di vista comunicologico che dal punto di vista, vorrei dire, politico, perché ciò di cui stiamo parlando è il modo in cui si forma l'opinione anche, quindi la capacità di decidere. E voi capite ad esempio che il problema della decisione, qui accento, la decisione, cioè la capacità, decidere in latino significa tagliare una possibilità fra le tante, decidere. la capacità di scegliere. E dipende naturalmente dalla capacità di discriminare. Noi sceglieremo il bene rispetto al male nel momento in cui la nostra mente sarà in grado di discriminare nella informazione, negli stimoli informativi che riceviamo, una possibilità rispetto ad un'altra, un'alternativa rispetto ad un'altra. Nel momento in cui il sovraccarico informativo, l'eccesso degli stimoli informativi rende impossibile per la mente una discriminazione vero o falso, la ragion politica è morta, la capacità di discriminazione tra il bene e il male, anche la capacità etica, devo dire, è morta, cioè la capacità di discriminazione tra il bene e il male, fra l'utile e l'inutile, scompare insieme con la capacità di discriminare. Ecco, questo non è un discorso conclusivo, non sto concludendo niente, voglio dire che l'umanità nella fase in cui noi viviamo sta probabilmente elaborando competenze discriminative che nella umanità moderna, l'umanità passata, alfabetica, non conosceva, cioè come si distingue, come si discrimina nelle situazioni di flusso. Ecco, non c'è dubbio che la vostra generazione, ad esempio, possiede capacità di intuizione immaginativa superiori a quelle di cui dispone la mia generazione, cioè voi adesso non è una questione di così individuale, ma è già visibile un mutamento che è ad esempio quello del multitasking. La capacità del multitasking non è una capacità naturale, però le generazioni che nascono all'interno di un ambiente diciamo multimediale hanno una capacità di agire cognitivamente su più ambienti che è certamente superiore a quello di una persona che per 40 anni della sua vita non disponeva di altro che della comunicazione scritta. E si può pensare che questo passaggio accada in maniera non traumatica, indolore? Io credo di no, credo che in questo passaggio si debbano scontare delle vere e proprie lacerazioni sul piano psichico, cognitivo, e c'è tutto un campo di psicopatologia, cioè di forme della sofferenza psichica contemporanea o proprio della sofferenza neurologica, mentale, in un senso, che sono provocate da questa forma di accelerazione. Pensate a patologie come il panico, la crisi di panico, o come la attention deficit disorder e tante altre. Ci sono patologie che possono essere strettamente collegate con questa accelerazione dell'ambiente infosferico e questa sorta di disequilibrio, di distonia nel rapporto fra mente e infosfera. Vabbè, sto aprendo molte questioni, ma quello che mi interessava era, quello che mi interessava era la distinzione tra utopia e distopia, però sto, per così dire, aprendo un ventaglio molto ampio di scenari distopici. Orwell ne ha descritto uno in modo molto lungimirante e tecnofilia e tecnofobia, utopia e distopia. E poi avevo invece aperto una questione che era quella del concetto di possibile. Non vorrei fare troppa confusione, quindi cerco di risalire alla mia questione Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione, no? Stiamo parlando del passaggio che dagli anni 60, diciamo, fino ai nostri anni ha visto la formazione e la proliferazione, la distribuzione, la, diciamo, penetrazione nella vita di tutti i giorni di una tecnologia comunicativa reticolare, digitale e in costante accelerazione. Il pensiero sociologico, ma soprattutto l'immaginazione letteraria, l'immaginazione artistica, la sensibilità in qualche modo, si sono predisposti a comprendere questo mutamento elaborando forme che possono essere quelle della utopia o quelle della distopia. Ma se vogliamo entrare un po' nella questione da un punto di vista diciamo da un punto di vista più concreto, cioè abbandoniamo per un attimo tutta la questione delle immaginazioni che sono state fatte dalla letteratura, ad esempio, dal cinema, eccetera, eccetera. E dobbiamo intenderci, dobbiamo investigare sulla nozione di possibile. Cosa vuole dire possibile? Allora vi propongo degli altri concetti che sembrano avere un rapporto con quello di possibile, che ce l'hanno in qualche maniera. Pensate al concetto di virtuale, pensate al concetto di immaginario. Allora, virtuale, il concetto di virtuale si può collegare con il concetto di attuale, forse, oppure adesso mi viene in mente che forse si può collegare con il concetto di fisico, concetto di immaginario. Immaginario è ciò che appartiene all'immaginazione, cioè alla nostra facoltà, una facoltà cognitiva che è quella che ci presenta delle immagini, delle immaginazioni, delle virtualità, delle l'immaginazione è anche una virtualità, ma non è solo questo. E accanto alla parola immaginario ci possiamo mettere la parola reale, per esempio. Ecco, vicino alla parola possibile, che cosa ci mettiamo? Caroni ha scritto nel libro di Cyborg è l'ultimo capitolo del Cyborg, quello a cui vado a fare riferimento ora, si intitola L'estasi del Cyborg, e in questo ultimo capitolo ragiona proprio sulla questione del possibile, di cosa vuole dire possibile. I cyborg, saggio sull'uomo artificiale. Che cos'è il cyborg? Beh, lo sapete benissimo. Allora, è confermato che c'è Videodrome? In teoria sì. Perché Videodrome naturalmente da vedere, perché Videodrome sta un poco... È un film dell'82, mi pare, 84, comunque, primi anni 80, quindi è proprio la prima fase del cyberpunk. E Videodrome è proprio un film che in modo molto esplicito, più esplicito ancora di Blade Runner in un certo senso, mescola la dimensione tecnica ed elettronica con quella corporea, fisica, carnale, quasi sanguinolenta, diciamo così, come se il corpo uscisse dal ventre dell'elettronica. Ecco, Caronia comincia con questo articolo, L'estasi del cyborg. Allora, il cyborg cos'è? Il cyborg è Cybernetic Organism, è un organismo cibernetico. La parola stessa fotografa una duplicità e quasi una contraddizione, perché organico e cibernetico sono le due dimensioni, non dico inconciliabili, ma insomma concettualmente differenti. Cibernetico, ancora di più elettronico, è ciò che si contrappone all'organico. Organico è il mondo del nato. Elettronica è il mondo del costruito, organica è il mondo del naturale, elettronica è il mondo dell'artificiale. Il cyborg è un organismo che incorpora l'elettronica, o forse il contrario, è un artificio elettronico che incorpora l'organico. In qualche modo potremmo dire che la figura del cyborg, lungamente immaginata dalla letteratura di fantascienza, finisce poi per realizzarsi nella nostra esistenza, nell'esistenza contemporanea, nel momento in cui la rete finisce per incorporare al proprio interno innumerevoli organismi, diciamo individui organici, occhi, orecchie e cervelli. Bene, e Caronia inizia questo articolo dicendo proprio il XX secolo è stato il secolo del possibile. L'affermazione si può leggere in modi diversi, ma fra loro concatenati. I filosofi, come sempre, non riflettono su un immutabile mondo astratto, ma sulla realtà storica che li circonda. Dal punto di vista delle condizioni di fatto, non intendo leggerlo tutto, leggo un po' di punti che ci permettono di concentrarci su alcune questioni. Dal punto di vista delle condizioni di fatto, nell'esperienza umana, l'area dell'impossibile sembra essersi progressivamente ridotta, più che in ogni altra epoca del passato. Nel corso del secolo appena trascorso, le tecnologie hanno realizzato cose che i secoli precedenti avevano ritenuto impossibili, dal volo umano, compreso il volo oltre l'attrazione gravitazionale del pianeta, alla trasmissione via etere o via cavo di suoni, immagini e dati, alla manipolazione del codice genetico, tutte cose che la mente umana ha sempre considerato impossibili o puramente immaginarie, e che invece la tecnologia contemporanea riesce a realizzare. Non che l'uomo non abbia mai aspirato a cose del genere o non le abbia mai tentate, ma il fatto che esse fossero, in date condizioni storiche, irrealizzabili, portava a spostarle in mondi e dimensioni separate dall'esperienza quotidiana. Interessante quello che sta dicendo Caronia, perché sta spostando la questione dal possibile all'immaginario. Non è possibile, ma è immaginabile, tant'è vero che esiste, non so, nell'Ottocento Jules Verne scrive un romanzo in cui è possibile andare fuori dall'orbita terrestre, o Leonardo da Vinci immagina che sia possibile, che immagina il volo, tenta perfino di realizzarlo, sembra che con cattivi risultati, però aveva immaginato e anche tentato di realizzare una cosa che però invece era impossibile, non si può fare. Se ci provi ti spattacchi per terra. Ecco, vedete che sto cercando di differenziare la parola immaginabile, immaginario, dalla parola possibile. Nello spazio del mito, parliamo del mito greco, gli esseri divini volano, proiettano di loro simulacri sui campi di battaglia, si accoppiano con gli umani o creano esseri a metà strada tra l'umano e il divino. Ma quando un uomo, Dedalo, inventa il volo, suo figlio precipita. E su quella tecnica ipotetica è come se fosse stato pronunciato un interdetto. È vietato. Qui possibile si contrappone a interdetto? No. Contrario di interdetto, di vietato, è lecito, per esempio. Non è impossibile uccidere tuo cugino. È possibile, ma è interdetto, non è lecito. Anche qui vediamo un'ulteriore distinzione. Anche sulle poche e misere tecniche che comunque alleviano la vita dell'uomo una volta separato dagli dèi, per esempio il fuoco, la metallurgia, grava un prezzo oneroso, un prezzo che paga ad esempio Prometeo, incatenato a una rupe del Caucaso, perché ha avuto il coraggio di portare il fuoco, la tecnica in fondo, agli umani. Ecco, quindi la tecnica è quella dimensione dell'azione umana che ci permette di forzare i limiti dell'impossibile, in un certo qual modo. Ciò che era impossibile prima diventa possibile dopo la creazione di un certo tipo di tecnologia. Vabbè, qui c'è un paragrafo che salto perché apre una questione che per il momento terrei da parte, però voglio segnalarvi questa questione. Possibile, impossibile e necessario. Cos'è necessario? Necessario è ciò che non può non essere. Naturalmente però quando tiriamo fuori questo concetto di necessità e apriamo una nuova questione, che è quella della distinzione tra il campo della realtà e il campo della logica, perché necessario, noi possiamo dire che qualcosa è logicamente necessario, cioè date certe premesse non è possibile giungere ad altre conclusioni che le conclusioni implicite nelle premesse logiche. E poi c'è invece una necessità di ordine naturale, non logico, materiale. È necessario mangiare se vuoi sopravvivere, non è una questione logica, è una necessità materiale, l'organismo deve elaborare certe sostanze, zuccheri e proteine, se vuole mantenersi in vita. Dunque è una necessità materiale, mentre il fatto che mentre il teorema di Pitagora contiene delle implicazioni di tipo logico, per cui è necessario il fatto che, dato un certo triangolo, si diano determinate relazioni matematiche fra le varie parti di questo triangolo. Allora, stiamo qui vedendo che anche il concetto di possibile dunque va riferito ad ambiti diversi, l'ambito della realtà e l'ambito della logica. È logicamente possibile o impossibile una certa cosa, che per questo però non equivale in modo diretto con è realmente possibile o impossibile una certa cosa. Noi sappiamo che è logicamente impossibile che 2 più 2 faccia 5. Nessun mutamento delle condizioni reali porterà al fatto che 2 più 2 faccia 5. Almeno la mente umana è così costituita che per cui logicamente determinate condizioni matematiche portano ad una certa conclusione matematica, mentre possiamo dire che è impossibile andare da Milano a Roma in 5 secondi. È impossibile, ma non è logicamente impossibile. Tecnicamente sappiamo che quella possibilità è data. Attualmente lo sappiamo, non è logicamente impossibile quella cosa lì, è tecnicamente impossibile alle condizioni presenti. Ecco, dunque, l'impossibilità logica è una impossibilità che attiene alle condizioni di pensabilità stessa di una condizione, mentre l'impossibilità materiale o tecnica è una impossibilità che si riferisce alle condizioni presenti della tecnica. Ecco che in questa maniera abbiamo complicato ulteriormente la faccenda di cosa è possibile e cosa no. Può sembrare che l'indubbio allargamento della nostra esperienza, dell'esperienza consentita all'uomo moderno dallo sviluppo della tecnologia, non abbia nulla a che fare con una modificazione del rapporto tra possibile e impossibile. Appunto, dobbiamo prima capire cosa vuole dire possibile. Il possibile sembra essere un concetto evanescente e ambiguo fin da Aristotele. Come stabilire un sicuro criterio di demarcazione tra possibile e impossibile, se non controllando empiricamente, fattualmente, con l'esperienza, ciò che, tra quanto si è pensato, si è poi effettivamente realizzato? Andiamo a vedere la nota 1, in cui cita Aristotele. Aristotele dice: il termine possibile sta a significare in un senso ciò che non è necessariamente falso, in un altro ciò che è vero, in un altro ancora ciò che può essere vero. Interessante. Allora, Aristotele già ci aveva detto che il possibile è ciò che non è necessariamente falso. 2 più 2 fa 5 è necessariamente falso, contraddice ad una necessità logica. Mentre si può andare da Milano a Roma in 5 secondi, non è necessariamente, è falso. ma non è necessariamente falso, non c'è nessuna necessità di ordine logico e neanche di ordine reale che renda l'ipotesi di andare in 5 secondi da Milano a Roma un'ipotesi falsa. È falso fattualmente, non abbiamo ancora una tecnologia che renda questo possibile, ma non esiste una impossibilità logica di che quell'enunciato sia vero. Dunque ciò che non è necessariamente falso. Oppure, e questa è la cosa più interessante, ciò che è possibile sarebbe ciò che può essere vero. Non lo è, ma può essere vero. Dal momento che non è necessariamente falso, allora può essere vero. Ma quel può, a che si riferisce? Allora c'è un potere inteso come possibilità logica, cioè non è in contraddizione con le leggi del pensiero, non è in contraddizione con una possibilità logica, per l'appunto, come 2 più 2 fa 5, ma può essere vero anche da un altro punto di vista, cioè da un punto di vista fattuale, reale, tecnico. Allora io mi spingerei a dire che possibile è ciò che non è ancora dispiegato, ciò che non è ancora dispiegato qui, voi capite, dispiegare, forse esplicare, troviamo una parola migliore, forse, non lo so, adesso mi viene in mente questa, ma dispiegare nel senso di portare a pieno compimento ciò che è implicito come, per l'appunto, possibilità o come potenzialità. Possibile è ciò che non è ancora interamente dispiegato, ma che è contenuto nella consistenza, nella composizione del reale. Ecco, insisto sul fatto che stiamo maneggiando un concetto che sfugge un poco, che ha diverse possibili accezioni, l'aveva già detto Aristotele, quindi siamo autorizzati ad una certa incertezza, imprecisione, perché per appunto il concetto di possibile si riferisce sia al campo logico, è logicamente possibile, sia al campo fattuale, e fattualmente possibile significa qualcosa di ben diverso da è logicamente possibile, anche se è vero che ciò che è logicamente impossibile mai potrà essere fattualmente possibile, mentre non tutto ciò che è logicamente possibile necessariamente diventerà mai fattualmente possibile. Cioè io posso dire non contraddice la logica il fatto che in 5 secondi io mi trasferisco da Milano a Roma, è logicamente possibile, fattualmente però non è possibile oggi e non ci riusciremo mai. Posso anche dire non ci riusciremo mai, poi magari sarò smentito, perché ciò che è fattuale cambia. Ciò che è logico non può cambiare perché appartiene alle strutture stesse della mente umana. Cosa non siano poi le strutture della mente umana è un capitolo che affronteremo un'altra volta, ma per il momento mi interessava porvi di fronte a questa questione della possibilità tecnica. Come, allora qui io ritorno alla questione dell'utopia o della scienza. Quando Marx dice il socialismo deve passare dall'utopia alla scienza, cosa sta dicendo? Sta dicendo che è inutile che tu fantastichi di un mondo in cui dalla fontana uscirà vino, non succederà mai in natura. E mentre, dice Marx, noi dobbiamo comprendere ciò che è possibile a partire dalla attuale composizione materiale del mondo. Il possibile è immanente, dice anche implicitamente Marx. Cosa vuol dire immanente? Immanente è ciò che immanet, sta dentro, che è qua. Immanente è ciò che non lo vediamo ancora dispiegato, ma è implicito nella realtà, nella struttura, nella composizione, nell'essere del mondo. Dunque, il socialismo passerà, dice Marx, dall'utopia alla scienza, quando la smetteremo di fare castelli in aria e cominceremo a dire come, a partire dall'attuale relazione fra tecnica, capitale, lavoro, eccetera, eccetera, da questa struttura attuale del mondo tecnico e del mondo del lavoro diventa possibile una evoluzione, diciamo un dispiegamento, dispiegamento vuol proprio dire questo, ciò che sta piegato è immanente e questo è ciò che è dispiegato, ma allora vuol dire che qui è possibile questo. Ciò che poi si è dispiegato, ok? Ecco, il socialismo passerà dall'utopia alla scienza quando diventerà una forma di pensiero, una forma di azione che agisce, tenta, si sforza di trasformare ciò che è implicito in esplicito, ciò che è possibile in dispiegato. Ecco, per tornare al nostro argomento, la immaginazione tecnologica, la stessa fantascienza, diciamo, la letteratura di fantascienza, a un certo momento tenta di passare dall'utopia alla scienza, diciamo così, mentre Verne o lo stesso Asimov immaginano qualcosa che accadrà in un lontano futuro quando le astronavi scopriranno che nel pianeta Z ci sono degli esseri con tre zampe. Ecco, da questa immaginazione senza rapporto con la condizione presente della tecnologia si passa negli anni 80 essenzialmente ad una fantascienza che è molto più legata alle potenzialità esistenti della tecnologia. Cyberpunk, in qualche modo, tenta la letteratura cyberpunk, tenta di non dire mai, di non immaginare mai niente che non sia possibile. È una delle regole della letteratura di fantascienza dagli anni 70 in poi. Non immaginare ciò che non è tecnologicamente già all'ordine del possibile. Perciò, quando in Neuromance, romanzo del 1984, pubblicato nell'80, credo. William Gibson descrive una tecnologia che ti permette di trasferire, che ne so, il dolore di una coltellata da un posto che sta a San Francisco alla metropolitana di Atene dove si trova Molly. William Gibson è ben consapevole del fatto che in quegli stessi anni si stanno elaborando delle tecnologie che si chiamano virtual reality e dunque la stimolazione di una percezione che non ha corrispettivo reale, ad esempio la virtual reality più famosa di tutte, quella del Data Glove che ti permette di sentire una pallina da ping pong che ti arriva nella mano, anche se non c'è nessuna pallina da ping pong, per dire. Ecco, ci sono tecnologie che stanno ragionando sulla virtual reality, sulla stimolazione simulata. ci sono tecnologie che stanno immaginando la teletrasmissione di impulsi elettronici capaci di suscitare un certo tipo di stimolo. Dunque è possibile che io al mio computer agisco in modo tale da provocare in una virtual reality lontana una stimolazione che ti fa, ti provoca gli effetti di dolore o di piacere. Pensiamo a tutto il campo della stimolazione sessuale a distanza, su cui c'è negli anni 80 tutta una ricerca. Negli anni 80 c'è soprattutto in quel periodo che cresce tutta un'immaginazione sotto il titolo di virtual reality, cresce tutta un'immaginazione relativa alla teletrasmissione di impulsi di impulsi fisici, di impulsi percettivi. Bene, ecco il possibile e il reale dunque. Caroni aggiunge anche che Aristotele, nel discutere il passaggio dalla potenza all'atto, sembra concepire l'impossibilità solo come impossibilità logica. Cioè una cosa non è possibile solo quando è logicamente impossibile. Dunque non è logicamente impossibile la teletrasmissione rapidissima, essere 5 secondi da Milano a Roma non è logicamente impossibile, dunque non possiamo escluderne la possibilità, dipende dagli strumenti di cui ci dotiamo dal punto di vista tecnico. Vabbè. Ecco, mi fa piacere partire da un capitolo dell'opera di Caronia che ha carattere così direttamente filosofico, anche se non è sempre così, insomma, i libri di Caronia non sono, diciamo, e definibili in senso proprio come libri di filosofia, però mi interessa partire di qui perché vi rendete conto del fatto che c'è nella questione, nell'insieme di questioni di cui stiamo parlando, cioè nelle questioni relative al rapporto fra immaginazione e tecnologia, c'è una quantità di implicazioni filosofiche, non soltanto sociologiche, non soltanto letterarie, ma propriamente filosofiche, perché in fondo poi la tecnologia virtuale, la tecnologia di rete, lavora su una questione che è squisitamente filosofica, il rapporto fra pensiero e realtà, fra percezione e realtà e così via. Insomma, nel momento in cui Morpheus parla con Neo in Matrix e gli fa questo discorsetto sulla la pillola rossa e la pillola blu, beh, in realtà sta ragionando su una delle grandi questioni del pensiero metafisico occidentale da sempre. Per dire, George Berkeley, che è uno dei filosofi più importanti dell'empirismo inglese, del pensiero della prima modernità, elabora un'ipotesi filosofica che si può chiamare empirismo mentalista, che viene poi sintetizzata da lui stesso nella formula esse est percipi, essere significa essere percepiti. Non vi è alcuna realtà se non nell'essere oggetto di una percezione. Questo tavolo esiste perché io lo percepisco. Naturalmente l'obiezione che possiamo fare a questa affermazione è che quando noi tutti usciamo di qui, non per questo questo tavolo ha smesso di esistere, ci suggerisce il buon senso. E Berkeley risponde, è vero sì, ma c'è una percezione che non si interrompe mai ed è la percezione divina, cioè è l'esistenza di Dio che rende possibile l'esistenza del mondo stesso, solo perché Dio percepisce in continuazione l'esistenza delle innumerevoli realtà del mondo, le innumerevoli realtà del mondo effettivamente esistono. Ecco allora che una teologia mentalista, un pensiero dell'esistenza di Dio che identifica Dio come una mente, coincide con una visione di tipo empirico, cioè fondamento esperienziale della conoscenza. Dal momento che vi è una mente che eternamente percepisce il mondo, dunque il mondo esiste permanentemente. Interessante l'ipotesi di Berkeley, se la rileggiamo qualche centinaio di anni dopo, alla luce delle tecnologie virtuali. La virtualità è proprio una condizione di percezione di un mondo che non esiste, ma che esiste perché qualcuno lo percepisce. Cos'è in effetti il mondo che Gibson definisce cyberspace, il ciberspazio? Il ciberspazio non ha una realtà fisica, materiale, indipendente dalla mente umana. Ecco, la rete prende il posto di Dio in qualche modo, no? Nella teologia del nostro tempo. La mente che mantiene in vita, in realtà, mantiene in esistenza le innumerevoli manifestazioni del virtuale, del reale virtuale, di quel reale che è la virtualità, quella mente è la mente umana connessa attraverso la rete. Il reale può essere virtuale? Sì. E allora che cos'è virtuale? Cosa vuol dire virtuale? Se non è mancanza di realtà. Beh, non possiamo dire che ciò, l'esperienza che noi facciamo quotidianamente in rete non sia reale. È reale, è realissima. Gran parte dell'economia contemporanea, della nostra vita contemporanea è virtuale, accade grazie alla virtualità. Allora bisogna chiedersi, ma dunque virtuale cos'è? È quel reale che non ha un'esistenza fisica. Io direi che virtuale è il reale che non si tocca, che non si può toccare fisicamente, che manca della condizione di toccabilità. Anche l'immagine, cos'è l'immagine? È una realtà che noi non... Ah no, sai che questo non è lo stesso che conosco io? Jean-Jacques Burger. Non vedo il titolo dell'originale, com'è? Ecco, io conosco la philosophie des images, ma questo non lo conosco. fosse il titolo dell'originale, però sarebbe meglio, no? Mimesis. Ecco, è possibile. Perché mi stavo un po' stupendo del fatto che generalmente, come sapete, quando voi prendete un libro tradotto, se volete sapere qual è il titolo originario, lo andate a leggere generalmente nella quarta pagina, qua, nella pagina che sta dietro il frontespizio. E qui non vedo il titolo originario di questo libro, per cui mi chiedevo di che stata. Il problema è che non è la traduzione di un libro, ma è la traduzione di una serie di articoli che sono usciti in francese in modo separato. E quindi, però sembra molto interessante questo qua, molto più interessante di quello che ho io, che invece è piuttosto noioso, la filosofia des images. Ah, dunque, e questo era il libro che Caroni aveva proposto, come, però poi mi sembra di ricordare che ha potuto lavorarci poco, cioè non... Cioè, a un certo punto del corso avevamo scelto, siccome avevamo portato tanti certi argomenti, se andare per quella strada, sì, o scegliere di trattare, cioè scegliere di fare un lavoro sulle parole e le cose di Foucault. Ah. E quindi l'avremmo probabilmente abbandonata anche noi. Poi una cosa, cioè, il professore aveva detto che lui quel libro ancora non l'aveva neanche letto lui, però conoscendo l'autore, conoscendo il... Sì, sì, ecco. Anche io non l'ho letto in questo libro, invece mi pare di capire che... Quindi io mi ricordo che c'erano soltanto dei capitoli di questo libro, cioè non era tutto. Cosa stai dicendo, scusa? Mi ricordo che lui ha letto che forse c'erano soltanto dei capitoli Beh sì, credo che si possa leggere... in maniera non dall'inizio alla fine, anche per il fatto che per l'appunto si tratta di un libro composto di frammenti, di articoli, la grosse image, contribuzione, approccio paradossale del simbolismo. Ah no, dai titoli mi pare che sia un libro che devo procurarmi immediatamente. Va bene. Mi stupisco. Forse perché mi sembra che non conosco la casa editrice e non... Sai cosa? Che probabilmente qualcuno me ne ha parlato di questo libro, ma io, come ho già fatto anche con voi, dicevo sì, lo conosco, convinto del fatto che La vita delle immagini fosse la traduzione in italiano di un libro che in francese si chiama Philosophie des images, libro piuttosto noioso, devo dire. E invece questo è un altro libro che probabilmente, certamente meno noioso, perché anche se insomma gli argomenti sono molto più interessanti che quelli là. Ok. Allora, io più o meno ho detto quello che mi riproponevo di dire oggi. I prossimi passaggi, adesso io continuerei a fare un lavoro così, insomma, come ho fatto oggi, se ci riesco, e cioè, diciamo, sviluppare il progetto, la scaletta iniziale, sempre di più entrando in contatto con articoli dei libri di Caronia. Quindi sempre più spesso cercherò di leggere dei brani, non dei capitoli interi. Poi, se ne avete voglia, magari potete leggerne altre cose voi. A questo punto ho l'impressione che siamo arrivati agli anni 90, diciamo così. Il tema, il concetto di cyberpunk, il mondo immaginario del cyberpunk è il mondo immaginario che descrive la connessione dolorosa o felice di organico ed elettronico. Nel 94 Mario Perniola, che è un filosofo italiano che si occupa essenzialmente di estetica, ha scritto un libro intitolato Il sex appeal dell'inorganico. Il libro non è così interessante come il suo titolo. Il titolo lo è molto, perché è proprio, rende l'idea di una questione che sta al cuore della tematica cyberpunk, cioè l'inorganico, che per definizione è privo di sex appeal, nel senso che è esterno alla dimensione organica, alla dimensione del corpo, dell'organismo, ma è anche, diciamo, esterno alla dimensione della pulsionalità che è propria dell'organismo. E invece quello che accade nei decenni di formazione della rete è proprio una sorta di attrazione estetica, ma potremmo quasi dire erotica, nei confronti dell'inorganico e dell'elettronica. Ora, quando dico attrazione erotica, mi rendo conto del fatto che sto vagamente esagerando o metaforizzando, però c'è proprio, a parte che poi naturalmente c'è tutto un campo di patologie che hanno a che fare proprio con la inserzione dell'elettronica all'interno della dimensione organica, e però quello che è interessante è vedere come nella immaginazione estetica e quindi nella sensibilità contemporanea si apra un campo sempre più significativo, sempre più vasto di attrazione per il cyborg. Quando uso la parola sensibilità, è evidente che mi riferisco ad un campo piuttosto complesso e almeno duplice. In inglese si usano due parole per dire queste due cose leggermente distinte: sensibility e sensitivity. Sensibility è la facoltà del percepire qualcosa che può essere, diciamo, che appartiene alla sfera dell'estetico, insomma, la sfera del dicibile, ad una sfera che può essere trasformata in maniera intellettuale, dunque è la dimensione estetica. Sensitivity invece è la percettività dei sensi, è la sfera del sensuale, della sensibilità come sensibilità propriamente sensuale. Ecco, mentre questa è sensitivity, mentre sensibility in inglese quasi sensibility significa anche ragionevole, e sensible person è una persona intelligente, una persona capace di capire, anche se noi diciamo è una persona sensibile. Per intendere, quando usiamo la parola sensibile in italiano, ci riferiamo ad una persona che ha la capacità di comprendere cose che non si possono dire. Cioè, quello non ha nessuna sensibilità, quel tipo non ha nessuna sensibilità perché non ha capito che è successa una cosa tragica. Lui continua a sghignazzare, non glielo abbiamo detto, ma lui lo dovrebbe capire dalla nostra faccia, no? Oppure non ha capito che noi due volevamo rimanere soli e ha continuato a rimanere qui, non glielo potevamo dire esplicitamente, ma se fosse una persona sensibile avrebbe capito quello che noi non gli potevamo dire. Ecco, quindi nella parola sensibilità è implicita la facoltà di comprendere qualcosa che non appartiene alla sfera del dicibile. Però questa sensibilità ha sfumature differenti, vi è una sfumatura che si ricollega unicamente al campo dell'estetica, e una sfumatura che si ricollega invece al campo della sensualità, del non dicibile, perché vabbè, chiuso l'argomento, sono le due. E noi ci rivediamo venerdì.